Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata in compagnia di Overbooking, con me Alvise, con Ferdinando, che è la nostra lieta novella di questa sera. Ciao, ciao, ciao Alvise, ciao a tutti quanti. Allora, sempre sui 102.2 di Radio San Donà, questa sera puntata a tema sul fumetto. Sì, una bella puntata a tema sul fumetto. Fino adesso non l'avevamo fatta, adesso abbiamo pensato perché no? Ed eccoci qua. Sì, infatti era una cosa che c'era sempre piaciuta fare, avremmo sempre voluto fare, ne abbiamo sempre parlato con il nostro Deus Ex Machina del programma, ossia il qui presente Matteo Polo, che ci guarda silente, e appunto... Perché occuparci solo di romanzi e saggi quando il fumetto offre degli spunti narrativi e, diciamo, e a non solo... E letterari. Letterari, letterari. Letterari è una buona parola. Sì, sì. E letterali non da poco. Abbiamo scelto per cominciare questa nostra avventura nel campo dei fumetti... un recente racconto, sì, di un importantissimo autore di fumetti italiano che si chiama Tito Faraci. Esattamente. Questo il libro che vi andiamo a presentare si chiama Il cane Piero, avventure di un fantasma. Sì, perché anche se oggi parliamo di fumetto non abbiamo perso il vizio comunque di parlare di libri, quindi iniziamo con una cosa che è un po' a metà strada. Esatto. Si tratta di un libro uscito per la collana Il Battello a Vapore, edito da PM Junior. Non fatevi diciamo ingannare da il fatto che sia di PM Junior, perché noi l'abbiamo letto in redazione e siamo rimasti assolutamente estasiati. Assolutamente sì. Diciamo che è un qualcosa che sta a metà tra un romanzo e un fumetto, in quanto è un romanzo con delle ricche illustrazioni che a noi sono piaciute molto. Sì, sì, sì. La serie azzurra del Battello Vapore recita in copertina da 7 anni in su. Noi siamo quel in su. Esatto, no, anche noi siamo da 7 anni. Anche da 7 anni, sì, effettivamente. Le illustrazioni sono, in questo libro, sono di Federico Maggioni, a cui noi facciamo assolutamente i nostri complimenti per la grafica. E lo salutiamo se ci sì, ascolta. Sì, ciao Federico, è bello che tu sia qui con noi. Allora, prima di andare a tirar fuori i petardi di questa sera. Ringraziamo Daniele per essere silenziosamente ai comandi della nostra trasmissione e andiamo a introdurre brevemente il di cosa si parla in questo Il Cane Piero. Allora, noi intanto, caro Alvise, diciamo che abbiamo anche, poi sentiremo dalla viva voce dell'autore, quindi da Tito Faraci, qualche informazione in più, ne parleremo con lui, parleremo anche della sua carriera di autore di fumetti particolarmente prestigiosa. Il libro è alla sua seconda ristampa, è uscito comunque non da moltissimo, quindi un buon successo. Sono le avventure di questo cane, Piero, che dai 7 anni in su ci allieta con la sua presenza, che diventa un fantasma a causa di un incidente che gli occorre, come dicono quelli bravi, e le sue avventure in una casa con due genitori, una famiglia composta da genitori e due figli, le avventure di questo cane con alcuni animali che gli fanno da sfondo, come dicono sempre quelli bravi, e poi sentiremo cosa ce ne dice il suo autore, il suo papà Tito Faraci. Bisogna dire, come ha anticipato giustamente Ferdinando, è un fumettista di valore, uno dei pochi italiani ad aver collaborato attivamente con Marvel, e scusate se è poco, e ultimamente, molto probabilmente, e è una domanda che noi ci poniamo, con l'avvento di una propria famiglia e dei propri figli, si è lanciato in questa avventura letteraria che a noi è molto molto piaciuta. Molto piaciuta. Bene. Io ora andrei, ringraziando i potenti mezzi messi a disposizione da Radio San Donà 102.2, andrei a sentire l'intervista con Tito Faraci. Allora, siamo in linea con Tito Faraci per una breve chiacchierata, o anche lunga chiacchierata, speriamo, lui è così disponibile, sicuramente sarà più lunga che breve. Ciao Tito. Ciao a tutti. È un piacere averti qui, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a voi. Allora, noi adesso abbiamo chiacchierato un po' con Alvise di questa tua ultima produzione per Il Battello a Vapore, Il Cane Piero, avventure di un fantasma, serie azzurra pubblicato da PM Junior. Una prima cosa che ti volevamo chiedere è da dove nasce questa storia? Sembra una domanda banale, però effettivamente la storia di un cane fantasma e dei suoi amici, da dove arriva? È anche una storia divertente, cioè la storia della storia, o almeno un po' insolita, perché nasce diversamente da maggior parte, da quasi tutte le storie che scrivo per fumetti. Nasce così, dalle cose che raccontavo ai miei bambini, anzi, per la precisione, quando adesso sono due ragazzi, quando erano più piccoli, una volta sono corso nella zona delle loro camere perché sentivo una baraonda pazzesca e mi sono messo, ma chi è che sta facendo questo rumore? Io no, entrambi, ho detto, ma chi è? Il Cane Piero, così, ma distinto, non so neanche dove è venuto fuori. Anche loro mi hanno chiesto, ma chi è il Cane Piero? E ho detto, ma sarà un cane fantasma. E poi da questo ci siamo messi a chiacchierare, e poi un po' di storie le inventavo io, un po' le inventavano loro, e sono venuta fuori questa cosa. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è interessante, che una volta così si parlava, siamo una famiglia serenamente laica, una volta stavo spiegando che c'è gente che crede che ci sia dopo la morte un tunnel con una luce in fondo, glielo dicevo, senza prendere in giro nessuno, glielo dicevo anche un po' ironicamente. Certo. E allora ho detto, si vede che il vostro cane Piero gli scappava la pipì, stava andando verso quella luce lì, però non gli scappava proprio, e allora si è girato indietro e si vede che c'era una luce anche dall'altra parte del tunnel all'inizio, è tornato indietro. È tornato da dove era partito come fantasma. No, guarda, fantastico. Io a volte quando penso agli autori letterari in genere, ma soprattutto a voi autori di fumetti, veramente è la prima domanda che mi viene sempre in mente, è proprio da dove nascono le storie, che è proprio la prima domanda, la più grande, ed è bello scoprire poi che ci sono degli aneddoti anche familiari, come ma in questo no, caso. Invece, in realtà, perché è una cosa veramente, parlando anche con colleghi, è molto molto difficile che una persona, un amico venga a dirti, guarda, mi è successa una cosa divertentissima, dovresti proprio farci un fumetto. Capita che te lo vengano a dire spesso, ma poi ti racconta questa cosa divertentissima, ma non è mai poi così divertente da farci un fumetto che possa funzionare. I fumetti, le storie, non vere, le storie di invenzione hanno regole ben più rigide che la vita, cioè la casualità è poi vita. E invece in questo caso è vero, cioè, benché in realtà questa storia nasca comunque da una storia, è legata ad una, come dire, ad un vivere familiare in cui è cresciuta, ecco. Una cosa poi che, alla quale stavo pensando, il libro, come dicevamo prima con Alvise, è una serie azzurra dai 7 anni in su. Noi l'abbiamo letto e sicuramente, dicevamo anche prima, apparteniamo più ai 7 anni che... Sì, noi siamo forse sui 6 e mezzo, o 7 meno un quarto. Però questo è un libro alla fin fine dove ci sono i fantasmi, ci sono cinghiali che inseguono, c'è un cinghiale che insegue gli altri suoi amici, nemici, c'è una zia matta, c'è un orso, c'è anche una parte, diciamo, thrilling o tra virgolette horror. Una cosa che volevo sapere: i bambini non si spaventano per questa cosa o hanno un rapporto giocoso con questo, con queste cose? Intanto io l'ho scritto senza sapere poi la casa editrice che target avrebbe scelto. Sapevo a un certo punto che era per il Battello Vapore, cosa che mi faceva piacere, non sapevo in che linea esattamente, non mi sono mai preoccupato di questo, ecco. Poi a un certo punto mi sono reso conto, mi sono ricordato che c'era da mettere quella dietro la copertina, questa indicazione, ma la scelta l'editor. E in realtà io penso che scrivere per bambini significhi una cosa che non mi stanco mai di ripetere, significhi scrivere anche per bambini, cioè avere un pubblico in più, non un pubblico in meno. Molti autori che cercano di approcciarsi alla scrittura per bambini commettono secondo me un errore fatale, cioè pensando di dover restringere il campo invece di allargarlo, perché hai un pubblico in più che non è un pubblico limitato, ma è un pubblico di lettori che non ha certe architetture, certe costruzioni mentali, certi percorsi obbligati. È un pubblico che è disposto a seguirti anche su sentieri strani, nuovi, che non ha incancrenito certe maniere di aspettarsi una storia, certe maniere di pretenderla addirittura, e a cui quindi puoi proporre con anche una grossa libertà espressiva, senza porti poi così tanti limiti all'inventiva. Ecco allora quindi che non devi fare un lavoro di autocensura, di riduzione, no, di quello che puoi fare, addirittura puoi fare più di quello che potresti fare per un altro tipo di lettore. Certo, c'è un altro tipo di censura, vogliamo una censura di certo tipo di argomenti, di frasi, di parole, ma in realtà è una questione marginale, non mi è mai pesata, in un certo senso non l'ho neanche mai sentita questa cosa. So che c'è, ma non mi è mai importato e non è mai stato un problema. Poi, se posso chiederti una cosa, a me ha colpito il libro perché è anche la storia di un cane che si interroga sul suo rapporto con gli uomini, con altri cani e con altri animali, quindi è anche un po' abbastanza introspettivo, se vogliamo, in qualche modo. Ma io penso che alla fine appartengo a una generazione che se le menava molto col messaggio un tempo, no? In un film, in un fumetto, no? Però io mi chiedevano cosa è significato questo libro, dicevo niente. Poi quando ero pronto e sono arrivato all'ultima pagina mi sono accorto, senza poi eccessiva sorpresa, perché non avevo in qualche modo intravisto che parlava anche di cose importanti, no? E soprattutto dell'importanza di trovare un accordo anche con chi è totalmente diverso da te, sulla necessità di creare una convivenza in un mondo in cui si hanno culture diverse. In realtà le razze, in questo caso le razze cani, gatti, orsi, eccetera, diventano involontariamente, ripeto, non ci ho pensato, riflette me stesso, ma non è stata un'operazione quindi volontaria questa cosa, diventano una metafora poi di diverse culture. Quindi possiamo dire in un certo senso che diventa un messaggio sulla tolleranza. Ma sì, ma certo, ma poi in realtà è venuto sulla poi da solo, non è? Sì, sulla necessità e anche sul divertimento di convivere, ecco, sull'impossibilità di andare avanti senza trovare una quadra in questa cosa, no? E sulla bellezza anche della diversità. Benissimo, io volevo chiederti un'ultima cosa per concludere, ma non so effettivamente se chiedertelo oppure no, perché mi sembra un po' banale, ma te lo chiedo lo stesso, tanto ho già messo le mani avanti dicendo che mi sembra banale. Guarda un po' che cosa ti dico. Questi escamotage. Questi escamotage veramente di... il peggio. Sì, bassissimo livello. Tu sei abituato a scrivere per il fumetto e scrivere quindi in un'altra forma, completamente diversa, proprio sceneggiatura per il fumetto. Qua invece si tratta di narrativa. Ti sei trovato a tuo agio anche in quest'altra forma? Qual è la differenza e quale delle due prediligi? Mi è piaciuta questa forma di scrittura, però totalmente diverso dal sceneggiare. Quando io sceneggio non scrivo, descrivo, no? Io do del progetto, una storia. No, quello in materia, io scrivo, le uniche parole che scrivo all'interno di un sceneggiatore di fumetti che qualcuno leggerà sono quelle del dialogo, ma se uno guarda nella quantità di cose scritte su una pagina di sceneggiatura, quelle poche righe di dialogo sono nulla. Il resto sono, possiamo chiamarle con una brutta parola che svinisce il disegnatore, è una parola sbagliata, ma è tanto per intenderci, sono istruzioni, fanno parte di un progetto che tu dai per quello che dovrà essere disegnato. Certo, no? Interno in giorno, caso, salotto. Invece, proprio quello che tu scrivi è quello, cioè la distanza fra te e il lettore diviene è zero praticamente. Io fatico moltissimo, ecco, ho parlato con compositori di narrativa, per esempio Lucarelli mi diceva ma è difficilissimo scrivere fumetti, io dico difficilissimo scrivere narrativa, evidentemente è la cosa per cui sono più naturalmente portato, non lo so, a cui semplicemente sono molto abituato. Del resto per me fumetto è sempre la prima scelta, è sempre malgrado le enormi soddisfazioni che mi ha dato questo romanzo, e poi ci saranno anche altre cose che ho già in cantiere. Bene, allora per le prossime cose in cantiere rimaniamo in contatto volentieri, ne chiacchiereremo in futuro. Intanto noi ricordiamo Il cane Piero, avventure di un fantasma di Tito Faraci, Battello Vapore, Serie Azzurra, edito da PM Junior. Ti ringraziamo tantissimo, Tito, per essere stato con noi, averci tenuto compagnia durante questa puntata di Overbooking. E ciao. Alla prossima. Alla prossima, allora, a presto, grazie a voi di tutto. Grazie mille. Allora, noi ringraziamo tantissimo Tito Faraci per essere stato con noi e vi anticipiamo che questa non è l'unica intervista che noi vi proporremo questa sera con Tito, anche perché i nostri Baldi, Matteo e Ferdinando, lo hanno incontrato precedentemente in quel di Mantova. Di Mantova, in quel del Festival Letteratura di Mantova, e poi sentiremo cosa ci ha raccontato in quell'occasione. Sì. Prima di andarlo a sentire facciamo una breve pausa musicale e andiamo ad ascoltare un pezzo che è Friday I'm in Love e che credo non abbia bisogno di nessuna presentazione. Overbooking 102.2 Radio San Donà. I don't care. Questi erano i Cure sui 102.2 di Radio San Donà, sempre in compagnia di Ferdinando Dalvise per questa puntata di Overbooking. Io vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete telefonare allo 0421 560993 o mandarci un fax allo 0421 560994, altrimenti per mail a radio@radiosandona.it. Vi ricordo anche che tutte le puntate, non solo questa ma anche tutte le precedenti puntate di Overbooking, possono essere sempre ascoltate e scaricate dal nostro blog d'appoggio, che è www.bloverbooking.wordpress.com. lì non troverete solo tutto quello che riguarda il programma radiofonico Overbooking, ma tutto quello che ruota attorno a Overbooking più in generale. Quindi troverete anche recensioni di libri che non passeranno in trasmissione, oppure anche racconti inediti o interviste da noi eseguite e che poi non trovano spazio in radio, ma comunque meritevoli. E anche, se posso rubarti il mestiere, certo, secondo, che puoi, la prossima novità saranno dei video. Esattamente, abbiamo deciso che è molto bello mostrare le nostre facce in pubblico. Assolutamente. Soprattutto se le nostre facce occupano poco spazio, ma molto spazio della telecamera è occupato da qualche nome di scrittore famoso. Assolutamente sì. Bene, a questo punto è il momento di andare a sentire l'ulteriore intervista con Tito Faraci, in cui si è parlato molto di fumetti. In cui si è parlato moltissimo di fumetti. Tito ci ha raccontato la sua storia di autore, di sceneggiatore di fumetti, una storia particolarmente prestigiosa perché è uno dei pochissimi italiani a aver lavorato per Marvel, ha scritto per Dylan Dog, per Tex, per Pensato un fumetto, fatto, sì, bene, ha scritto anche per quello là. Quindi tutto quello che vi viene in mente. Questo mi ricorda un po', pensa alla prima marca di dentifricio che ti viene in mente. Oppure uno di quei giochi tipo pensa un numero, esatto, fa il doppio. Fa il doppio, e poi veniva sempre fuori il numero che avevi scelto all'inizio, o zero, una, esatto, delle due cose. Bene, allora, dalle nostre abili e non più agili manine di Daniele Terzariol, l'intervista realizzata da Matteo e Ferdinando a Tito Faraci. Benissimo, e allora continuiamo la nostra puntata speciale Mantova, la nostra serie di puntate dedicate al Festival Letteratura di Mantova, il più importante festival del settore in Italia. L'ospite di oggi, come abbiamo più volte ripetuto, è un autore di fumetti estremamente importante, tra i migliori del paese, si chiama Tito Faraci. Adesso avremo la possibilità di intervistarlo, di domandargli un po' di cose sulla sua carriera, sulla sua professione, e penso che lo abbiamo già in diretta, vediamo un po'. Buongiorno a tutti. Ciao Tito, è un piacere averti direttamente qui su Radio San Donà. Con uno sfondo di voci di Mantova, moltissime voci sono di autori, scrittori noti, cioè si incontra e si incrocia continuamente qualche faccia che hai visto sullo sguardo di un libro. È meraviglioso. Allora, io so che tu hai fatto più incontri a Mantova in questa edizione, uno dei quali è dedicato al rapporto tra la letteratura e il fumetto, una comparazione fra letteratura e fumetto. Ma in realtà poi parte da una definizione classica attribuita, e che comunque piaceva molto Ugo Pratt, che è quella di fumetto come letteratura disegnata, e ovviamente oggi è una definizione superata, è una definizione che aveva un senso negli anni 70 perché indicava una strada, cioè una strada di valutazione, cioè del fumetto, non voleva dire il fumetto letteratura, voleva dire il fumetto vale quanto la letteratura, a questo punto aggiungo vale con quanto il cinema, il teatro, cioè ha una sua dimensione di arte, ha un suo linguaggio, attenzione, ha un linguaggio, non è un linguaggio, insomma, come ha un linguaggio il cinema e il teatro, però non è letteratura, il fumetto è fumetto, ha un suo spazio preciso, delle sue caratteristiche precise. Allora questa definizione che indicava una strada, una volontà, un desiderio, no? E anche un orgoglio di fare qualcosa di importante, che potesse parlare a un pubblico adulto, che potesse parlare, raccontare storie di grande spessore, oggi può e deve essere superata e in un certo senso tornare a dire la cosa più semplice, cioè che il fumetto è fumetto. Sì, la letteratura è letteratura, possono, esatto, essere vicine di casa, possono toccarsi, possono scambiarsi degli argomenti, possono perfino scambiarsi delle storie, però sono due cose separate. Tra l'altro, nella tua esperienza professionale più recente, questa cosa che hai appena finito di dire, questo rapporto fra letteratura e fumetto che possono anche scambiarsi, l'abbiamo vista con il fumetto di Topolino e Novecento che hai sceneggiato. Certo, però è un'anteprima qua amato, ma questa per voi quindi risulta un'anteprima anche per voi. Ho presentato alcune tavole di Finto Sangue, graphic novel tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro Baricco, questa volta senza topi e paperi, ma è una trasformazione della storia in un fumetto, in cui ci sono delle cose molto simili al racconto del romanzo, ci sono altre cose che nel romanzo non ci sono, ma visivamente prendevano senso, e uscirà verso fine ottobre. Ecco, quindi questa è una anteprima anche per i nostri... È un'anteprima assoluta, sì. Perfetto, abbiamo anche questo... Disegnata da Francesco Ripoli, sceneggiata da me, dal romanzo di Alessandro Baricco. Non ce la faremo mancare. E invece, noi sappiamo, per esempio, tu sei uno dei pochissimi autori italiani di fumetti che è riuscito a lavorare anche in America, intanto con Disney Italia, però anche in America con la Marvel. Come è avvenuto questo sodalizio? Come sei riuscito ad arrivare fino a Marvel? È partito da una cosa locale, nel senso che da una storia ambientata a Venezia dell'Uomo Ragno, il mistero del vetro, che era stata prodotta dalla Panini, che rappresenta la Marvel in Italia, e doveva essere un prodotto locale, come dire, sopra il mercato italiano. Poi ha avuto varie edizioni all'estero, in Inghilterra, in Germania, in Brasile, ma adesso non mi ricordo una quantità. A questo punto è venuta fuori un desiderio, un interesse da parte poi della Marvel americana per provare un secondo esperimento che avesse un respiro anche adatto al pubblico americano. Allora, lavorando anche con gli editor americani, abbiamo fatto una storia di Capitan America e Devil assieme, ambientata a New York, intitolata Doppia Morte, che è uscita negli Stati Uniti e in svariati altri paesi nel mondo. Questa storia è disegnata da Claudio Villa, che è l'illustratore delle copertine di Tex, di molte bellissime storie di Tex. Quindi due storie italiane, anche se poi uscite in vari paesi del mondo. Ecco, tu hai accennato al lavoro con Tex, e infatti questa è una delle cose che mi incuriosivano particolarmente. Volevo chiederti, ricordiamo che hai lavorato, hai scritto fumetti per praticamente le testate, i personaggi più importanti in Italia, per Diabolik, per Tex, veramente per le firme più prestigiose del fumetto italiano. Qual è la differenza che hai visto tra il lavorare in Italia, per esempio, per Bonelli e lavorare per gli americani? Sono proprio differenze a livello di lavoro, di tempi, di rapporto con l'editore? Ma guarda, per ogni editore che lavori, anche in Italia cambiano le cose, no? Ha del rapporto che si crea, che è un rapporto molto intimo, ma questo vale anche per la letteratura, fra il tuo editor, non editore, intendo proprio la persona che segue la tua storia precisa e te come autore, cioè un rapporto di sentirsi spesso, di risolvere i problemi. Però poi alla fine ogni casa editrice ha le sue caratteristiche, cioè scrivere una storia per Topolino e una per Diabolica o una per Tex, cosa che mi capita, non è solo una differenza nello scrivere personaggi diversi, ma anche con rapportarsi con case editrici che hanno dei modi di lavorazione che poi si assomigliano ma sono diversi, perché nel mondo dell'editoria anche il rapporto umano non è anche il suo bello e ha un peso gigantesco. Con gli Stati Uniti questi rapporti sono stati molto mediati, perché alla fine erano dei grandi scambi di mail, ecco, forse un po' più freddini, ma necessariamente in questo senso. Io ho usato un tipo di sceneggiatura che si usa in Italia, che è una sceneggiatura molto dettagliata per i parametri americani, in cui le cose sono descritte moltissimo, e in cui il disegnatore riceve delle indicazioni di inquadrature molto dettagliate rispetto ai parametri americani, ripeto, però temevo che questo creasse del disagio, ma invece non c'è stato un problema, non ho sopportato di leggersi tutta questa cosa lunghissima per la loro media. Del resto poi il fatto che entrambe le storie siano state disegnate da un autore italiano o da un disegnatore italiano non ha comportato problemi, perché è abituato a ricevere storie sceneggiate in questo modo. E tu ci parlavi giustamente del rapporto con i disegnatori. Noi sappiamo per esempio che hai collaborato con alcuni dei più importanti disegnatori italiani, penso per esempio a Cavazzano per quanto riguarda la Disney Italia. E qual è il rapporto fra un autore, uno sceneggiatore di di fumetti e il disegnatore che poi traspone quello che tu hai immaginato, soprattutto quando immagini o inventi un personaggio nuovo, si riesce a lavorare, c'è un'alchimia che si deve creare, hai dei tuoi disegnatori preferiti, come funziona questo rapporto? Un rapporto difficile, semplice? Di solito sorprende chi non conosce il mestiere dello sceneggiatore di fumetti vedere uno sceneggiatore di fumetti, perché è pieno di indicazioni molto precise sulla posizione di oggetti, inquadratura, taglio, luce, quindi nell'esclamazione che mi è capitato di sentire spesso, erronea, lo dico subito, è: ma allora il disegnatore non deve solo fare quello che lui gli dice. No, non è vero, perché in realtà mentre c'è un pezzo del lavoro dello sceneggiatore che in un certo senso si sovrappone al lavoro del disegnatore, un po' come se disegnasse dando quelle istruzioni, no, sulla posizione delle cose, c'è un pezzo del lavoro del disegnatore che si sovrappone a quello dello sceneggiatore, perché anche lui sta raccontando e lo racconta attraverso il disegno, alla fine facendo un milione di scelte che lo sceneggiatore non può fare lui, perché non è che puoi descrivere la posizione di ogni molecola nello spazio. Allora in questa sovrapposizione in cui il disegnatore un po' racconta, lo sceneggiatore un po' è come se disegnasse o governasse il disegno, ecco, questa sovrapposizione è una sovrapposizione magica che dà questo valore al risultato finale, che è particolare, che nasce veramente dalla fusione di due talenti, di due visioni del racconto. E quando funziona, devo dire la verità, nel mio caso sono sempre stato fortunato, potevo creare sempre un buon rapporto, ecco, è un valore aggiunto notevole. Certo. Certo, guarda, io concluderei chiedendoti un'ultima cosa, che è una domanda estremamente retorica, estremamente inutile, ma che proprio per questo ci piace, ed è anche una domanda particolarmente abusata: che consigli daresti a chi volesse intraprendere la tua stessa carriera, a un giovane autore, sceneggiatore di testi di sceneggiatore di fumetti? Di non lasciarsi scoraggiare, perché gli diranno tutti che tutti i posti sono occupati, non c'è bisogno, eccetera. Questo è normalissimo, è così che quando ho cominciato io è sempre stato così, ho indagato e pare che sempre la risposta sia che siamo già a posto, grazie. Ogni spazio è occupato. Questo vendere gli editori lo fanno per difendersi da montagne di fuffa, da dire. Quindi insistere. Però sappiate che anche se è vero, questa cosa, anche se l'editore è sincero nel dirlo, che è già attrezzato, è ovvio che un editore è già attrezzato, altrimenti i giornali, fumetti, i libri fumetti non arriverebbero, ne dico, nelle librerie. Quindi è ovvio che un editore è al completo, altrimenti non si può, non è che può uscire 10 mesi e 2 mesi saltarli perché gli mancano 2 sceneggiatori, ecco. Certo. Quindi anche se la risposta siamo completi è sincera, è sempre stata la risposta per ovvie ragioni, ed è molto difficile che un vero talento venga lasciato sfuggire. E comunque quando capita un editor ci rimane molto male, ci continua a ripensare e prima o poi un buco vede di ricavarlo. Benissimo. Quindi non lasciatevi scoraggiare. Tito, è stato veramente un piacere per noi averti in trasmissione oggi, avere dato la possibilità in una trasmissione che si occupa prevalentemente di narrativa e saggistica, aprire anche al fumetto, di aprire con la tua presenza, quella di uno dei più importanti autori italiani. Noi ti ringraziamo e a risentirci. A presto, buona giornata. A te, buona giornata. E questa era l'intervista realizzata per Overbooking 102.2 Radio San Donà da Ferdinando e Matteo in quel di Mantova. Li abbiamo mandati in trasferta, hanno portato la loro tendina e il loro sacco a pelino e qualche risultato ce lo hanno anche prodotto. A questo punto noi prendiamo 2 piccioni con una fava questa sera e, dopo aver parlato delle avventure del cane Piero di Tito Faraci, ci ricolleghiamo al suo passato e al suo presente di fumettista per parlare di una delle più interessanti manifestazioni che ci sono nel Veneto orientale e non solo. Sì, allora, chiacchieriamo un po' con uno dei suoi organizzatori di Treviso Comic Book Festival, che si è svolto il 25-26 di settembre appunto a Treviso, come dice il nome stesso. Abbiamo in linea Alberto Polita, che è uno degli organizzatori. Ciao Alberto. Ciao ragazzi e ciao Tito Faraci, che salutiamo. Tito indistintamente ti saluta. Allora, esatto. Innanzitutto, questo non era assolutamente il primo anno della manifestazione, perché io mi ricordo di esserci stato 2 anni fa, vedi tu. Esatto, sì, questa è la 7ª edizione, anche se non sembra, però di fatto è il 3º anno che è veramente un festival, perché i primi 5 anni era, diciamo, una fiera del fumetto, mentre adesso l'abbiamo trasformato in un festival con un programma culturale di ben 9 mostre più eventi, incontri con gli autori, che affianca appunto la classica mostra mercato in Camera di Commercio. Sì, il festival ha avuto anche un grande successo, ho letto un numero, si parla di 11.000 persone che sono venute trovarvi in 2 giorni, mi sembra un ottimo risultato. Sì, 11.000 contando anche l'evento del venerdì della Toy Night, sicuramente come presenze, e no, è veramente un ottimo risultato, siamo soddisfatti sia per la presenza di pubblico che per la risposta della città, che quest'anno è stata davvero importante. E anche, perché no, che a noi fa sempre piacere, quella degli autori e degli editori che sono venuti da noi e che sono stati tutti molto contenti dell'accoglienza che abbiamo riservato loro e del programma che era offerto. Gli editori stessi spesso non vanno alle fiere, chiamiamole medio-piccole, ma si concentrano su Lucca o su Milano o Napoli, e invece noi avevamo 15 case editrici in mostra mercato, che ci rende un po', se vogliamo, adesso esageriamo, una piccola fiera della piccola e media editoria di fumetto. Che bellezza, già visto che siamo in Veneto, piccola e media impresa, e andiamo. Dai. Suona sempre bene. Ecco, esatto. Da cosa nasce l'idea di questa manifestazione? Allora, Treviso Comic Book Festival nasce 7 anni fa, dopo che si era chiusa l'esperienza di Treviso Comics. Treviso Comics rappresenta 30 anni di storia, e noi non possiamo altro che venerare e onorare la memoria di tutta la manifestazione che c'è stata organizzata per 30 anni, che ci aveva resi il fulcro del fumetto in Italia assieme a Lucca praticamente, e questa cosa era venuta meno per svariati motivi che adesso è anche inutile ormai raccontare. E un gruppo di appassionati, inizialmente le 4 fumetterie della città, perché sembra incredibile ma Treviso ha 4 fumetterie, quasi come Roma, e praticamente hanno voluto far rinascere una piccola manifestazione del fumetto. Si sono poi aggiunti una serie di personaggi importanti e autori, da Massimo Pericinotto a Paolo Ongaro, storico fumettista veneziano che è anche il nostro presidente onorario, e poi sono arrivato io, è arrivato Nicola Ferrarese, che anche lui è jesolano e è l'ex editore delle Edizioni del Vento, e anno dopo anno abbiamo messo in piedi un festival che, insomma, voglio dire, vi sta dando delle soddisfazioni. Un festival tra l'altro che ha accolto il primo raduno nazionale degli Urban Sketcher, ce n'erano 43 sparpagliati per Treviso, e che richiamavano il tema, se vogliamo chiamarlo così, delle mostre di quest'anno, perché c'erano 9 mostre, correggimi se sbaglio, all'interno giusto. Del festival, dedicate proprio al carnet de voyage. Quindi esatto. Che forse in Italia ancora non è celebre, non è famosissima, è molto seguita come cosa, quindi voi fate bene ad aprire la strada. In Francia è estremamente seguito invece. Sì. Grazie intanto del complimento. Abbiamo voluto aprire una vetrina su questa forma d'arte itinerante, come ci piace chiamarla, perché uno dei ragazzi della nostra associazione, che è anche un fumettista, si chiama Andrea Longhi, è un appassionato di carne di viaggio, ha scoperto questo mondo. Allo stesso tempo abbiamo scoperto che in Francia c'è una biennale del carnet de voyage, sì, di Clermont-Ferrand, esatto. E da lì il passo è stato breve, perché c'è una comunità veramente, veramente prolifica, che è Urban Sketcher, che ha le sue divisioni in Italia, addirittura divisioni per province. Infatti sono venuti su a gruppi, Urban Sketcher Latina, Urban Sketcher Firenze, e sono venuti su in gruppi. E praticamente c'è un grosso movimento che si è raggruppato tutto al nostro festival, e per l'occasione è sceso anche il segretario generale della Biennale di Clermont-Ferrand, quasi a battezzare un po' l'iniziativa, che in Italia era la prima nel suo genere. Quindi avete fatto proprio, avete centrato l'obiettivo in pieno, insomma. Veramente, sì, infatti siamo stati contenti, scusa. Veramente complimenti. Io volevo chiederti come ultima domanda, se qualcuno, e speriamo molti tra i nostri ascoltatori, fosse interessato alle vostre attività, vi può trovare in internet in qualche modo? Sì. Allora abbiamo il sito del festival, che comunque va preso come riferimento, che è www.trevisocomicbookfestival.it, e poi abbiamo anche il sito della nostra associazione, che è www.fumettintv.com, con una i sola in mezzo. E siamo sempre alla ricerca di nuove idee, di nuovi stimoli, e soprattutto durante l'anno organizziamo svariati eventi, da incontri con gli autori, presentazioni, ma anche ci piace fare le cose live, quindi spesso realizziamo degli eventi tipo la Toy Night, appunto, con una serie di autori che disegnano, dipingono dal vivo svariate cose, sempre nell'ambito del fumetto. Insomma. Allora, oltre a dare l'appuntamento all'anno prossimo per la prossima manifestazione, certo, come ci hai appena detto, appuntamento anche nei prossimi mesi, io prima di chiudere ti faccio un ringraziamento personale, in realtà non direttamente alla tua persona, ma ho te qui in rappresentanza, quindi lo faccio a te, perché certo, parlavamo prima della mostra mercato dei fumettisti, io sono venuto a Treviso, sì, e sono riuscito a trovare dei fumetti che mi mancavano per completare la mia collezione di Akira dei fine anni 80, quindi insomma ti ringrazio e questo è un po' uno, ecco sì, quindi grazie a te che l'hai organizzata, che sennò la collezione mi rimaneva ancora senza il numero 15, quindi grazie. Bene, sono contento. Noi ti ringraziamo Alberto per essere stati con noi e speriamo di risentirci al più presto e di poter raccontare ai nostri ascoltatori tutte le vostre iniziative e tutto quanto farete per far conoscere i fumetti di più e di più nel mondo. Grazie ancora e bene, come ogni cosa bella anche questa dura poco, siamo alla fine. Io ringrazio tantissimo Ferdinando, che è sempre bello e piacente, mi dispiace che voi non lo vediate. Guarda, mi sono anche fatto la barba e dimostro 7-8 anni di meno, quindi sì, un adolescente. 7 anni o più. Esatto, bravissimo, serie azzurra. A questo punto io vi ricordo che questa puntata e tutte le nostre precedenti sono, potete sempre trovarle su www.bloverbooking.wordpress.com. Qualcuno ci chiede come è scritto Blover Booking, ora ho tempo per farvi uno spelling. Blover Booking, scritto B-O-O-K-I-N-G. Benissimo, cosa possiamo fare? Ringraziamo quindi alla redazione, a me piace molto questa cosa alla di avere redazione. Alla redazione, cioè l'idea di avere una redazione, non si immagina le scrivanie, i computer, insomma i modem e tutto il resto, quindi mi piace questa immagine anche se non è assolutamente veritiera, ma mi piace. Anche se noi ci si trova su una panchina normalmente. Sì, in realtà siamo sotto il ponte della Stura, ecco che non c'è qui, però è come fate conto che ci sia, e quindi ringraziamo alla redazione Matteo Polo, ringraziamo alla regia, e anche questo mi piace come termine, bene, molto bene, mi piace, buttiamo un po' lì Daniele Terzariol, alla collaborazione sui libri Alice Montagnier, sì, sempre in redazione ringraziamo Giulia De Pentor, certamente, ai microfoni ringraziamo Alvise e soprattutto un grande ringraziamento va a Ferdinando. Bene, noi abbiamo finito di annoiarvi anche con questa puntata. Andate in pace, come esatto, la messa. Sempre sia lodato, andiamo a sentire Perro del Mare. Thank you.